mosse fine, ma lui con grande serietà saluta tutti, fa un inchino e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo sopra il capo, sopra la giacca e sopra il gilet la camicia. Sopra le scarpe porta le calze, non ha bottone con il lascito sui calzoni. Ma Pippo Pippo non lo sa, e serio serio se ne va per la città. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. Quando passa ride tutta la città e le tassine dalle vitrine di famiglie mozzettine. Ma lui con gran serietà saluta tutti i palenchini e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. Sopra il capo sopra la giacca, sopra il gilet la camicia, sopra le scarpe porta le calze, non ha un bottone con i lacci dentro i calzoni. Non lo sa,